Una persona appagata è un essere soddisfatto, contento. Proprio per questo il termine appagato non è da ritenersi appropriato, se riferito ad una persona, per quanto le cose vadano bene infatti. Sappiamo che ci è sempre qualcosa nella vita che gli impedisca di sentirsi pienamente soddisfatta. Dando per scontato che ognuno abbia problemi di salute, ciò che rende insoddisfatti è anche il fatto che le cose non vanno sempre secondo le aspettative, che gli altri facciano cose che non ci sono gradite, che le proprie ambizioni non possano essere sempre realizzate, che non si possieda ciò che il cuore brama. Tutta la vita è una continua insoddisfazione, si è amareggiati, frustrati, delusi. Una tale situazione non può che essere espressa con tale termine, inappagato. Proprio perché riteniamo che l'uomo in genere non possa essere appagato, desidero spiegare perché io mi ritengo una persona appagata, soddisfatta. Tutto è iniziato nel 1964, quando avevo 21 anni. Non che negli anni precedenti non sia successo nulla di importante, ma nel maggio del 1964 ho fatto un'esperienza che ha cambiato radicalmente la mia vita. Non è stata un'esperienza traumatizzante, come l'essere scampato ad un incidente mortale, o come ho letto l'essersi salvato miracolosamente dall'esplosione di un aereo e precipitato a terra da 10.000 metri senza paracadute. Io sono stato trasformato in un altro essere. Da figlio del diavolo, sono diventato figlio di Dio. Simili espressioni ci portano nel campo spirituale, ma quando esperienze del genere incidono nel tuo essere modificando mente e volontà, allora non vi sono paragoni. Scampare da un pericolo mortale può cambiare certi atteggiamenti. Possedere una natura nuova, come accadrebbe se un cane diventasse partecipe della natura di un gatto, significa essere catapultati in un altro mondo, pur continuando a vivere in questo. Devo precisare, la mia non è stata un'esperienza religiosa. Dopo 3 giorni di lotta e resistenza mi sono arreso all'amore di Dio che mi invitava a lasciare una vita triste, senza scopo e significato, per afferrare, tramite la fede, il dono di Gesù Cristo. Quel giorno ho ceduto spontaneamente la mia volontà e la mia mente a Gesù Cristo, affinché ne facesse quello che a Lui pareva bene. Poiché Dio non è debitore di nessuno, quel giorno, dopo la mia resa incondizionata, ho ricevuto lo Spirito Santo, che mi ha fatto diventare figlio di Dio. Subito ho avvertito l'appagamento divino. Fin da piccolo avvertivo una profonda insoddisfazione nel mio essere, niente riusciva a placare questo mio malessere. Divertimenti, ballo, musica, la mia insoddisfazione. Dopo il mio patto con Cristo, ho intrecciato con Lui una relazione quotidiana e la Sua presenza, ora, mi è sufficiente in ogni circostanza. La mia relazione non è con una religione, con un gruppo di persone o con un credo, ma con il Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Poiché la relazione con Gesù Cristo mi è sufficiente appagante, ora posso relazionarmi con il prossimo, con coloro che posseggono la mia stessa fede, con soddisfazione, appagato, di nulla mancante. Non ho bisogno degli altri per essere felice, né dell'apparato religioso per sentirmi importante o realizzato. Mi basta la persona di Gesù. In Lui ho un appagamento divino, che ha benefiche ripercussioni sui miei rapporti fraterni. Letture, svaghi, sembravano aumentare. Questo però è solo un aspetto per il quale io sia una persona appagata. Come giustificare o spiegare il mio appagamento con un'esistenza piena di necessità, di problematiche, di sofferenza? Sto forse vivendo fuori della realtà in una specie d'estasi, o è veramente possibile essere appagati, seppur alle prese con una vita travagliata? Il punto è questo: se le situazioni esterne non possono darmi quella felicità di cui ho bisogno, esse non potranno neppure togliermi il senso di soddisfazione che possiedo. Se ciò che mi circonda non mi può appagare, non potrà neppure togliermi ciò che non mi può dare. Non ha valore tanto ciò che mi succede, ma lo stato d'animo con cui io affronti le circostanze. Sentendosi appagati, tutto è godibile. Anzi, si gode proprio perché le necessità sono placate. E come voler gustare un sorso d'acqua? Se si è assetati, si tracanna, ma senza gustarlo pienamente. Il vero godimento sia essendo in grado di razionalizzare le sensazioni seguite dalla ragione. Non si può godere di ciò che ci circonda se non si è già felici. In una stupenda giornata, passeggiando in un bosco dove odori e colori rendono il cammino paradisiaco, posso goderne in minima parte se sono depresso. Mangiassi anche il miglior cibo di questa terra. Se sono ansioso e preoccupato per la salute dei miei cari, non potrei goderne. Così è per le contrarietà. Un mio vicino, facendomi un dispetto, può farmi soffrire, ma non può togliermi la gioia se questa non dipende dalle circostanze. Se qualcuno mi offende gravemente, se mi accusa ingiustamente, non canto certo dalla gioia, ma l'appagamento che possiedo non viene scalfito. L'appagamento è fondamentale per una buona relazione con il prossimo. Tutti riceviamo dei torti, delle ingiustizie, ma quando si è appagati non si sente neppure il bisogno di rispondere occhio per occhio. L'appagamento lo impedisce. Si fa del male al prossimo, ci si vendica, perché in tale atto si trova soddisfazione, un certo appagamento momentaneo. Ma se si è già soddisfatti, perché cercare altre soddisfazioni nella ripicca o nella vendetta? E come voler mangiare quando si è pienamente sazi? Niente di più sgradevole. E come voler riposare quando non se ne sente la necessità? Non vi è sacrificio più grande. Un uomo appagato non può avere nel suo cuore sentimenti negativi nei confronti del prossimo. L'appagamento è ancora maggiore quando le circostanze avverse, le ingiustizie, fanno il tuo gioco. Abbiamo bisogno del giusto atteggiamento verso la vita. È necessario essere dotati d'umiltà e sensibilità per relazionarci con il prossimo. Sono troppi i rapporti rotti o incrinati. Si vive in una società sempre più affollata, i cui membri sperimentano però una drammatica solitudine interiore. E, più che necessario, imparare a vivere e a convivere. Come fare? Cosa fare? Niente. Non serve preoccuparsi, perché le situazioni avverse preparano il nostro animo e spirito ad affrontare le situazioni della vita. Vuoi comprendere il prossimo che si trova in difficoltà? Ebbene, una tua difficoltà improvvisa ti aiuta a capire chi si trova in situazioni analoghe. Devi parlare ad una persona di cose molto delicate e senti il bisogno di comunicarle nel modo giusto? Niente di più facile. Ti trovi, improvvisamente, ad essere accusato e trattato ingiustamente. Con lo spirito afflitto e aggravato, ora hai il giusto atteggiamento e la giusta disposizione d'animo per parlare al prossimo. Ciò che può apparire un'avversità risulta invece una benedizione, una necessità. Perché fa il tuo gioco, rendendoti idoneo alle situazioni della vita. Quante volte ho subito umiliazioni e, poco dopo, ho avuto la gioia di condurre un'anima alla conoscenza di Cristo. Com'è vero che prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero, Proverbi 16 e 18. Possiamo dire che prima di glorificare Dio avviene l'umiliazione. Non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per la tua benignità e per la tua fedeltà. Salmo 15:1. È impossibile glorificare Dio ed essere contemporaneamente glorificati. Sì, ciò che rende appagati è la certezza che le contrarietà della vita, la malvagità delle persone, siano strumenti nelle mani di Dio, per glorificarlo e compiere i suoi piani. Nella Bibbia abbiamo un esempio che è degno di essere ricordato. L'Eterno Dio ordinò al Faraone di liberare il popolo di Israele. Questi, ostinato, non lo voleva fare. Così, a più riprese, l'Eterno colpì l'Egitto con diverse piaghe non mortali. Un giorno l'Eterno ordinò a Mosè di andare dal Faraone. Ecco le parole che leggiamo. Poi l'Eterno disse a Mosè: «Levati al mattino presto, presentati davanti al Faraone e digli, così? Dice l'Eterno, il Dio degli ebrei, lascia andare il mio popolo, perché mi possa servire. Poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe proprio su di te, sui tuoi servi e sul tuo popolo, affinché tu conosca che non c'eri, e nessuno simile a me su tutta la terra. Infatti se io ora avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato cancellato dalla terra. Ma, proprio per questa ragione, ti ho risparmiato, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Esodo 9, 13-16. Dio è potente, volendo, in un attimo, cancellerebbe tutto ciò che ha creato, toglierebbe il malvagio, in un batter d'occhio. Egli però nella sua sapienza e volontà divina come per il faraone lascia che l'empio compia le sue malvagità, per mostrare quanto egli sia superiore al male e per esserne glorificato. Ciò non appaga, non sono il bene o il male in sé ad appagarmi, ma ciò che essi producono. Mangiando molto miele, se sto male, il buono si trasforma in cattivo, ma se la fame produce in me il benessere, ben venga. Sì, per Dio il male, l'ingiustizia, non sono un problema. La morte di Gesù Cristo non è servita solo per salvare l'uomo dalla perdizione eterna, ma per renderlo anche appagato nel male, nelle difficoltà, nei problemi della vita. Come? Non di certo togliendoli. Egli ha, infatti, decretato che il giusto e l'ingiusto debbano vivere insieme. Lo spirito e l'anima del giusto sono appagati in ogni situazione, poiché egli conosce che entrambi, giusto e non, sono strumenti usati da Dio per dare gloria a se stesso. Se l'Eterno avesse fatto morire il faraone, come avrebbe potuto dimostrare la sua potenza ed essere glorificato in lui? Se i figli di Dio vivessero in modo facile e scorrevole, come potrebbero glorificare Dio con la fede, la fiducia, l'abbandono in Gesù Cristo? Solo chi è debole e insicuro vuole togliersi subito dalla situazione negativa. Riguardo all'Eterno, che ha ogni situazione in pugno però, leggiamo: «Starò tranquillo e guarderò dalla mia dimora, come un calore sereno e luminoso alla luce del sole, come una nube di rugiada nel calore della mietitura». Isaia 18,4. Stupenda e rara immagine di chi non sia turbato, né preoccupato né apprensivo, emblema di chi sia appagato in ogni situazione. Così è del cristiano. Egli può ogni cosa in colui che lo fortifica. Egli sa godere quando è contornato da una mano umana che stringe la sua, quando riceve una carezza, un abbraccio, un sorriso, sa soffrire. Quando le interiora si contorcono dal dolore per mancanza d'amore, sa vivere nell'abbondanza e nella penuria, egli sa riconoscere coloro che lo amano, perché, per quanto male ci sia, c'è, è sempre qualcuno che lo ama, egli sa vivere in ogni situazione da appagato, egli sa che tutto è nelle mani di Dio, che da lui dipendono chi è ingannato e chi inganna, Giobbe mezzogiorno e 16, per cui non vi è situazione che possa togliere l'appagamento. Egli vive pieno di riconoscenza, senza lamentarsi, perché è più facile vivere avendo da lamentarsi, che cercare il modo di non doversi lamentare di nulla. Egli ha conosciuto la parola di Dio, i pensieri di Dio, le sue profondità, ma più che questo, ha conosciuto il Dio della parola. Non vi è maggior appagamento di questo. Appagamento eterno, inesprimibile, insondabile. Dicembre 2001. Ellero,